Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 7 milioni e mezzo di telespettatori ieri sera per Italia-Slovenia, non sono pochi ed è il segno che la domanda di calcio cresce e presto, anzi molto presto, d'altra parte verrà soddisfatta. Venerdì Milan-Lazio, parlo di appuntamenti televisivi svincolati dal resto del gruppo. Venerdì Milan-Lazio, sabato Cesena-Napoli, domenica Palermo-Inter, martedì Barcellona-Milan, mercoledì Manchester City-Napoli e Inter Trabzonspor, insomma in una settimana mi pare che avremo la voglia abbastanza rapidamente. Buongiorno e bentornato Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Tutto questo sempre che il contributo di solidarietà che era uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra non torni a intorbitare le acque, non credo, ma lo dico perché 300.000 euro di reddito è una somma che in Serie A, non dico valga per tutti, ma insomma vale per... Direi quasi tutti. Insomma, in larga parte. Esatto. E sì, poi magari però sai anche tu che alla fine della telefonata potrebbe cambiare e poi magari rientrare alle 16, fare la pausa del tè alle 17, rientrare alle 18 e uscire alle 19. No? Infatti, è uno slalom meraviglioso, col paletto snodabile. In questa, fantastico. Insomma, no? Mi sono molto piaciuti infatti i commenti del Club Italia, di alcuni componenti del Club Italia a questo proposito, perché Prandelli molto signorilmente ha detto le tasse si pagano e non si commentano, no? Un po' come le sentenze, e questo è diciamo una reazione istituzionale. Buffon ha detto in una bella serata di Sport lasciamo perdere questi argomenti che sono l'ennesima umiliazione per questo paese, mentre Giorgio Chiellini, che è il più realista di tutti ed è più in sintonia con te, dice non commento anche perché cambia tutte le volte. No? È come commentare gli exit poll. Esatto. Rischi di prendere delle cantonate. Esatto. Aspettiamo. Essendo solo due mesi che cambia ad ogni ora, vediamo quale sarà poi l'ultima versione dei saltimbanchi, no? Esatto, credo sia l'unica definizione compatibile con questa povera gente, anche se i poveri in realtà siamo noi che ci dobbiamo fare i conti. Fabio, in ordine sparso, perché gli argomenti possibili sono tanti, il primo è molto spiacevole, nel senso che partiamo da basso, due DASPO ieri sera a Firenze per Italia-Slovenia, un tifoso sloveno che ha cercato di entrare allo stadio, un cinquantenne con un paio di forbici nascoste nelle tasche dei pantaloni, un italiano che invece aveva soltanto un fumogeno, uno di Reggio Emilia, che però faceva parte di quella ventina di ultra appartenenti al gruppo di estrema destra, noti, tristemente noti col nome di Ultra Italia, che hanno così ben illustrato all'estero il nostro paese in occasioni di recenti partite della nazionale, ma soprattutto a Wembley un morto per una faida, pare, tra tifosi gallesi. Questo tifoso è stato sarebbe stato aggredito da altri tifosi gallesi, e sarebbe morto per un arresto cardiaco dovuto in realtà allo spavento, ma certamente nell'ambito di un atto di violenza. Beh, Wembley e dintorni non sono molto avvezzi a cose di sto genere. No, questo no, erano non episodi dimenticati, perché purtroppo comunque qualcosina accade, e diciamo che tutto questo poi spesso si oscura, perché la cronaca è talmente arriva sempre una dopo l'altra che fa dimenticare quasi tutto. Però effettivamente il calcio inglese da un po' di tempo non faceva i conti con queste vicende, che poi devono essere sempre decodificate nella sua vera natura, e però prendono sempre a prestito il calcio. Ecco, io trovo che una cosa che non si riuscirà mai ad eliminare è proprio questo, cioè il fatto che il calcio possa e debba diventare per molti l'occasione per regolare dei conti o per comportarsi in un certo modo, appunto con il calcio che viene sfruttato, no? Viene preso, sì, a paravento, e viene preso quasi a sorta di giustificazione per compiere le peggio efferatezze. Ecco, lì io temo davvero che non si riuscirà mai ad eliminare tutto. Resta l'amaro in bocca ancora una volta, ma anche semplicemente, adesso al di là poi della vicenda di Wembley, anche cioè pensare di andare allo stadio e immaginarsi che il tuo vicino possa avere nascoste da qualche parte del paio di forbici, un coltello, una cosa del genere, è una sensazione veramente orribile. E anche lì, per fortuna molti vengono presi, purtroppo non tutti. No, calcio, l'Italia più tardi, perché insomma i commenti poi in genere in queste occasioni sono affidati agli ascoltatori, il bilancio è nettamente positivo e quindi possiamo slittare di qualche minuto. Sul resto del fronte, vabbè, che la Spagna dia 6 gol a Liechtenstein mi sembra nell'ordine naturale delle cose, semmai possono essere pochi. Il fatto nuovo, direi, è che fino a ieri pomeriggio Thiago Alcantara, questo nuovo gioiello del Barcellona, tra l'altro figlio appunto di Masinho, eccetera, ha optato, cioè da ieri sera, avendo debuttato con la nazionale spagnola, non può più essere un giocatore brasiliano, considerando che suo padre Masinho, ex Lecce tra l'altro, aveva vinto il titolo di campione del mondo nel 94 proprio contro l'Italia con la maglia del Brasile. Beh, insomma, un minimo di suggestione la crea sta cosa. Ma non c'è dubbio, che poi questo ragazzo è nato in Italia, tra l'altro, per quando Masinho giocava nel Lecce, per cui è un incrocio, è il cosmopolitismo al massimo, alla massima potenza. Ma io credo che fosse una scelta legittima, normale. Insomma, Thiago Alcantara è sempre stato calcisticamente un giocatore spagnolo, quindi era abbastanza normale. Poi negli ultimi anni purtroppo ci siamo abituati alle scelte un po' di comodo, con le cittadinanze abbastanza regalate o acquisite per meriti, sì, magari non per meriti, sì, bisogna prova grossa, e quindi va bene, però cioè non mi sarei molto stupito del contrario. Poi sono scelte veramente personali che è anche difficile sindacare, però poi quando la crescita calcistica è così, uno poi quello che si sente dentro se lo sente lui. E quindi sinceramente considero Thiago Alcantara un giocatore a tutti gli effetti della nazionale spagnola e non mi stupisce per nulla questa scelta, cioè la condivido fino in fondo, ripeto, senza commentarla, perché anche queste sono cose che alcune si possono commentare magari un po' ironicamente, ma no, questa no, mi sembra che ci stia tutta. Certo, ci sta tutto, anche che con grande classe, senza farlo pesare, tu mi abbia corretto sulla pronuncia che è per l'appunto Alcantara e non Alcantara. Vabbè, senti, vabbè. A proposito di ragazzi, un'altra suggestione molto bellina è questa, che ieri c'era in tribuna, anche se poi in realtà era un campo d'allenamento, quello del Real Madrid, ma c'era un signore abbastanza trepido, un po' agitatello, un po' emozionato, che assisteva alla prima partitella di suo figlio inserito, cioè contro i titolari, quindi nel gruppo diretto da Mourinho. Questo signore, molto stempiato e da molto tempo, cioè per quello, si chiama Zidane. Perché? Perché in campo c'era per la prima volta ad allenarsi coi titolari suo figlio Enzo, che così si chiama in omaggio a Francescoli, perché Enzo, esatto, Francescoli era l'idolo di papà Zizou, di papà Zidane. Beh, carina anche questa come storia. Molto, credo che poi essere figlio di Zidane comporti molti vantaggi ma anche un filino di svantaggio, perché ti chiederanno sempre di fare qualcosa in più del normale, visto insomma che il cromosoma è di una certa nobiltà, il quarto di nobiltà è assicurato. E poi certo la suggestione bis è vederlo trattato da José Mourinho, che però con Zidane mi sembra abbia un ottimo rapporto, quindi ecco, non so col figlio di Valdano come si sarebbe comportato, se non so se Valdano abbia dei figli, sì, ma comunque vabbè, no, bene, perché poi quando i figli di questi grandi campioni giocano è sempre bello. Però ripeto, ecco, non so, mi piacerebbe una volta averci a che fare con il figlio di uno così grande, per capire davvero fino in fondo quanto vantaggio ha avuto dall'essere Zidane, Enzo Zidane, e quanto invece in realtà gli possa anche pesare, perché chiaramente poi bisogna avere le spalle belle larghe per sopportare anche tutti i flash e le telecamere lì. Ma spesso e volentieri finisce per essere così, difatti. Fabio, siamo vicini al primo intervallo, preparati subito dopo, perché così a rapido volo l'uccello, vediamo un po' il Portogallo che comincia a rischiare qualcosina nel suo girone per via degli altri dei risultati incrociati. L'Olanda che sta veramente dominando la scena in assoluto e l'Inghilterra di Capello che è praticamente in porto ma senza particolarmente brillare. Subito dopo gli aggiornamenti dalle strade. Dicevamo con il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli, in ordine sparso, Inghilterra, Olanda, Portogallo, che cosa ti muove? Allora, l'Inghilterra ancora male dal punto di vista del gioco, nel senso che insomma, non, questa è una squadra che davvero non ingrana, temo che non ingranerà mai da questo punto di vista, ed è un vero peccato. Comunque, insomma, con la vittoria di ieri manca un solo punto. Devo dire che il Montenegro, che aveva iniziato benissimo, ha un po' rallentato, ma ha grandi chance di entrare comunque negli spareggi. A me, al di là di tutto, poi ovviamente parliamo anche del Portogallo, il dato più interessante secondo me è questo, e cioè l'affacciarsi di squadre come il Montenegro, ma soprattutto come l'Armenia, perché l'Armenia ad esempio ha vinto in Slovacchia 4-0 ed è pienamente in corsa per addirittura la qualificazione al primo posto, che non sarà facile perché la Russia ha 17 punti, l'Irlanda ne ha 15, però l'Armenia ne ha 14, così sì, come la Slovacchia, e rende il gruppo B quello più interessante, nel senso che ci sono quattro squadre in corsa. In realtà il gruppo del Portogallo è quello più combattuto, perché Portogallo, Danimarca e Norvegia, dopo la vittoria della Danimarca di ieri, hanno tutte 13 punti, e il fatto che ci siano squadre a 24 punti come la Germania, a 24 come l'Olanda, la stessa Italia ne ha 22, e che nel gruppo del Portogallo la capolista, cioè queste tre squadre, ne abbiano 13, dimostrano come effettivamente esistano ancora dei gruppi dove le ultime due partite saranno dei veri scontri diretti. Anche nel gruppo della Croazia ci sarà lo scontro diretto che deciderà Croazia-Grecia, e quindi è interessante. La stessa Francia non è certissima di vincere il suo girone, potrebbe essere costretta allo spareggio, anche oltretutto sì, due partite in casa, la seconda ce l'ha in casa con la Bosnia, però sai, la Francia di disastri ne ha già commessi, quindi potrebbe anche complicarsi la vita. Per cui ecco, il dato dell'Armenia mi sembra uno dei primi segnali di queste nazionali che a forza di tentativi riescono ad essere competitive fino alle ultime partite, che è un buon segnale in una visione più ampia, dove tutto sommato quelle forti il loro girone lo vincono, perché non dovrebbero esserci scalpi eccellenti. Ripeto, solo la Francia tra le grandissime rischia qualcosa. Nel girone di Croazia e Grecia passa una o passa l'altra, bene o male il lignaggio è quello, insomma. Fabio, dato che nei prossimi giorni ci caveremo la voglia di parlare di squadroni, di parlare di grandi personaggi, okay, perché ritorna il campionato, i campionati, e ritornano soprattutto le coppe, tra l'altro con una partenza lanciata, perché basterebbe Barcellona-Milan o City-Napoli per dare un'idea di cosa ci aspetta. Io starei ancora su due o tre argomenti di questi giorni apparentemente minori. Beh, uno è Felix Magath, no? che con calma, perché riferito alla partita del 18 agosto, quindi ci ha pensato su un po', ma poi ha deciso di multare di 10.000 euro due suoi giocatori colpevoli di non aver seguito le sue istruzioni tattiche durante la partita. Beh, questo è un inedito da un certo punto di vista. No, questo è un inedito ed è secondo me anche un po' pericolosetto, nel senso che Magath, io non so cosa gli sia successo negli ultimi anni, ma oddio, non lo conosco personalmente, però a me pare che nelle ultime due o tre stagioni Magath abbia preso il peggio di qualche suo collega, sì. E si sia segnalato, non dico quasi esclusivamente per questo, però per grandi litigi, ha avuto a che dire veramente con chiunque, sia a livello dirigenziale che a livello di giocatori. Ora, multare un giocatore perché non esegue i suoi dettami tattici può avere un senso se lui si è accorto che questi lo hanno fatto apposta, cioè se lui capisce che esiste una sorta di ammutinamento, chiamiamolo così per semplicità di discorso, sì, allora ci può stare, però a quel punto lì la società li deve mettere fuori squadra o comunque deve intervenire pesantemente, altrimenti si rischia davvero di entrare in un regime autoritario dove l'allenatore può disporre, non dico del portafogli dei propri giocatori, sì, ma cioè, mi sembra pericolosetto come precedente. Ripeto, se lui ne ha notato il dolo, se lui ne è certo, e può anche esserlo. Allora sono pochi 10.000 euro di multa. Allora sono pochi 10.000 euro, che nelle tasche di un calciatore pesano abbastanza poco, e allora a quel punto lì però ci vuole l'intervento forte e duro della società e anche della federazione eventualmente. A proposito di fare scuola negativa, beh, insomma, non ha bisogno di maestri, credo, questo Bulat Chagaev, o come si chiama, questo oligarca ceceno che è il proprietario di Neuchâtel Xamax. Allora, nella civilissima città di Neuchâtel, che è un'oasi della, della Svizzera francese. Dunque sono sei allenatori che sono stati che si alternano in 114 giorni. L'ultimo è Victor Muñoz, l'ex bandiera del Barça e poi che ha giocato alla Sampdoria, eccetera. È il sesto, ripeto, allenatore in 114 giorni. Ma il problemino, come dire, supplementare, accessorio, è che sto presidente arriva in spogliatoio con le armi e minaccia i giocatori con le armi. Ma guarda, io non con il calcio ma con il basket ho avuto dei racconti da parte di un allenatore italiano che ha lavorato nella vecchia Unione Sovietica, in una delle vecchie repubbliche socialiste sovietiche, e mi ha detto che non si è stupito assolutamente di questa scena. Ah, ecco. Questo allenatore mi raccontò che allenava una squadra femminile e che questo presidente, il quale era fortemente vicino all'ex KGB, lo minacciò di morte perché voleva che lui facesse giocare una giocatrice, una certa giocatrice, la quale incidentalmente spesso, come dire, faceva compagnia al presidente, terminate le fatiche dell'allenamento. Quindi ho davvero il triste sospetto che con certi personaggi, in certe situazioni non esista proprio la possibilità di ragionare, cioè, quindi un presidente che entra in uno spogliatoio ad armi spianate è qualcosa di pazzesco. Però ti ripeto, da racconti fattimi di prima persona non sono stupito, si fa per dire, nel senso che bisogna ancora stupirsi per questo. Però ecco, temo che dove esista un certo tipo di oligarchia, dove esistano queste vagonate di denari, poi sulle quali si può o ironizzare o sospettare, ma non è questo il momento, ecco, chi li detiene perde un tantinello il lume della ragione e si considera discretamente infallibile e come tale è portato a operare. Ecco, certo. Pagina bruttina, insomma. Io credo che gli allenatori dovrebbero pensarci prima di farsi assumere da questo signore. Credo anch'io. Sì. Ogni tanto noi infieriamo sui nostri presidenti, ma insomma, perlomeno a questo punto non so, i nostri mangiano allenatori, ma insomma li mangiano in maniera eufemistica. Visto che ci sono parecchi ascoltatori che stanno premendo all'800 24 00 24, allora arriverei all'ultima, che è una domanda, un'osservazione, volevo sentire un commento tuo. Leggevo sulla Gazzetta, sul supplemento europeo della Gazzetta di stamane, che la metà in Spagna, la metà dei diritti televisivi, quasi la metà, i diritti televisivi valgono 607 milioni di euro, e 280, cioè 140 a testa, vanno a Real e Barcellona, che quindi insomma si dividono quasi il 50% dei diritti televisivi. Dai 140 euro a testa di queste due si scende ad Atletico Madrid e Valencia, che ne prendono 42, Villarreal 25, eccetera. Il presidente del Villarreal, Roiga, dice o le cose cambiano o in 3-4 anni il calcio spagnolo muore. È lontano dalla verità, pare tuo? Secondo me il numero di anni può anche ridursi, nel senso che se anche quest'anno Real e Barça dovessero, come tutto porta a pensare, tu pensi che i bookmakers pagano la terza quota della Liga è pagata a 40, cioè la vittoria del campionato del Siviglia, cioè della terza forza, è pagata a 40. Questo dimostra chiaramente che il campionato se lo giocano Barcellona e Real Madrid. Loro non possono pensare, ecco, diciamo che tutto questo viene oscurato dal fatto che allora il Classico è diventato un evento ormai extra calcistico, extra sportivo, e il Barcellona regala dello spettacolo puro praticamente sempre. Questo però come dire, copre il fatto che il campionato spagnolo non sia un campionato. Il campionato spagnolo non è un campionato, è semplicemente la corsa a chi fa più solletico o meno a Real Madrid e Barcellona, e loro se la giocano nel Classico, salvo poi magari farsi qualche autogol in qualche partita di campionato. Se loro non capiscono che sono già molto in ritardo e che quindi devono cominciare a recuperare da questo punto di vista, il campionato spagnolo, ha ragione il presidente del Villarreal, il campionato spagnolo è sepolto, perché è proprio l'ottica del campionato che, certo, che è sepolta, perché non è più un campionato, una partita a due squadre, già di fatto il campionato spagnolo già non esiste più, se intendiamo il campionato, nella visione più pura. Mi sembra profondamente condivisibile. Grazie Fabio. Grazie. Grazie a te Gigi, a presto. Chiudiamo questo collegamento con Fabio Tavelli. C'è una dichiarazione di Totti che taceva da molto tempo, insomma, in particolare da quando erano cominciate prima le sostituzioni, diciamo pure abbastanza cervellotiche da parte di Luis Enrique, e poi da quando, insomma, erano cominciati gli strali da parte a turno da parte della società. Il messaggio di Totti è: tutti quanti noi dobbiamo stringerci intorno al nuovo allenatore, alla squadra e alla società per partire nel modo migliore. Lo faremo insieme con un unico obiettivo, la Roma, di cui proprio io sono il primo tifoso. Questo Francesco Totti rivolgendo un messaggio ufficiale da capitano ai tifosi romanisti. Abbiamo delle voci da ascoltare, potremmo sentirle subito, potremmo sentirle nella seconda parte. Ci sono alcuni messaggi che mi paiono particolarmente interessanti. Beh, ce n'è uno leggermente esagerato che addirittura mi dà del Montanelli dello sport, che mi sembra è un complimento da alzarsi in piedi e da arrossire, cosa che ho già fatto, ma insomma, mi sembra un po' sinceramente eccessivo, e questo per aver definito saltimbanchi insomma i signori che sappiamo. Mentre invece Massimo da Milano scrive: lei è proprio lo stereotipo italiano, qualsiasi cosa si decida lei ha sempre la critica pronta, ma chi dovrebbe pagare le tasse se non coloro che guadagnano tali cifre? Firmato Massimo Milano. Finora messaggio splendido, perfetto, con un'appendice sgradevole: lo legga se ha coraggio, altrimenti è un codardo. In genere quando ci sono queste appendici di messaggi non leggo per principio, stavolta sì, perché lei ha ragione Massimo, nel senso che è giusto che ci sia in un momento del genere un contributo di solidarietà e che chiami in causa quei redditi. La critica era sul fatto che hanno cambiato idea già una dozzina di volte, credo, sul contributo di solidarietà, su chi lo deve pagare, su da che fascia deve partire, chi deve coinvolgere, chi riguarda, ed è per l'appunto la materia, come dire, il palcoscenico su cui si sono esibiti i saltimbanchi per tutta l'estate, e stanno continuando drammaticamente a farlo. Siamo arrivati all'intervallo per sentire come va a proposito proprio sui mercati. Sulla partita di ieri ho avvertito un po' di enfasi eccessiva, come spesso accade in Rai, scrive Antonella. È vero che di gol ne prendiamo pochi, ma altrettanto pochi ne segniamo. Secondo me lei, Antonella, ha ragione, sia dal punto di vista della produttività, ma soprattutto da quello dell'enfasi, della retorica. Insomma, queste telecronache sono davvero, a parer mio perlomeno, infarcite di retorica, e per fortuna è molto asciutto, oltre che molto competente, inevitabilmente appropriato, il commento tecnico sobrio di Ranieri, che mi sembra particolarmente apprezzabile. Marina da Milano scrive: può succedere anche che la legge tributaria faccia un'eccezione per il mondo del calcio, come già avvenuto per i passivi di bilancio, come avviene per i reati commessi dagli ultra, che prevedano come attenuanti il tifo calcistico, proprio come un tempo il delitto d'onore giustificava l'uxoricidio. Marina, temo che lei abbia molte, molte ragioni. Evans ha chiamato da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. No, volevo solo un'informazione, visto che sento questa trasmissione qua, tutti sono mi fa compagnia, sì, che sono un tifoso del calcio. Sì. Sentito prima il signor Tavelli a parlare delle nazionali che sono praticamente senza nome nell'arena del calcio, tipo Armenia, così. Io sono albanese, volevo un'informazione: come vede il signor Garantini la nazionale albanese in questi 2-3 anni qua? Guardi, mi preparerò, le prometto che mi preparo un giorno o l'altro sull'argomento, ma adesso mi prende davvero un tantino alla sprovvista. Scrive Raffaele Terenghi, dice: parlando di figli d'arte, cioè di figli di celebre stelle del passato, mi è tornato in mente il caso del figlio di Cruyff, modesto giocatore che alla fine decise di togliersi dalle spalle quel pesante cognome e giocare con il nome di battesimo. È vero, si ribattezzò Jordi, o Jordi, insomma, comunque con il nome di battesimo, e da lì le cose un tantinello migliorarono, ma sa, il figlio d'arte parte sempre, per carità, può avere magari una partenza un pochino più lanciata, come potrebbe essere il caso del figlio di Zidane, che magari è un'opportunità in più in partenza, ma che è il caso da cui siamo partiti oggi, ma poi però quel nome pesano moltissimo, e spesso fanno da diventano una, insomma, ti porti sulle spalle una cosa che non sei in grado di reggere. Non è un caso d'altra parte che tra tutti i figli d'arte della storia, ma non solo il calcio, qui stiamo parlando di vita in assoluto e di qualsiasi professione, arte o mestiere. Nel calcio io credo che oltre il padre sia certamente andato Paolo Maldini, perché suo padre è stato un grande difensore degli anni 50, dei primi 60, papà Cesare. Paolo Maldini certamente è andato oltre il padre da figlio d'arte. Tanti altri casi non li ricordo, poi magari tra un po' vi scatenate voi e chissà quanti me ne ricordate. Mentre invece a Evans volevo dire che insomma sì, l'Albania penultima in questo girone francese con 8 punti, bah, insomma non credo, no, non che si dovesse qualificare a forza in quel girone, ma penso che faccia abbastanza fatica, che possa considerarsi eliminata. D'altra parte la caratura grosso modo è quella. Mario, ho chiamato da Perugia, buongiorno. Buongiorno, sono un ex barbiere con 50 anni di negozio. Sì. Barbieria è il salotto più o meno buono, non è lo sport. No, tolga pure il meno, salotto buono. Senta, io vorrei sapere per curiosità, la squadra che vince il campionato cosa prende? La prima cosa, poi vorrei dire qualcosa della Juventus. La squadra che vince cosa prende in denaro, intende? È quello che c'è di premio. Quello che c'è di premio per la squadra che vince il campionato, io sinceramente mi prende alla sprovvista. Infatti, quindi 50 anni di negozio non sono riuscito a saperlo. Va bene, e questo dopo mi risponderà un'altra volta. Sì. E dopo c'è sott'occhio il giornale Juve, che spettacolo il nuovo stadio. Uh-huh. Mi fermo qui o sul mio giornale c'è anche scritto qualche altra cosa? Non c'è scritto niente, per esempio, che la dirigenza tecnica sta distruggendo un giocatore come Krasic. E poi ha preso Giaccherini, un buon giocatore, ma aveva Giovinco. Su quest'ultimo punto siamo d'accordo e mi ero già anche esibito, però stiamo facendo un po', lei sta saltabeccando tra beni mobili e immobili, e insomma questo è il momento dei beni immobili, visto che domani sera inaugurano il nostro stadio. Tra l'altro domani non dico che ci sarà una puntata speciale, perché poi l'indomani ancora comincia il campionato, quindi gli argomenti saranno tanti, ma insomma diciamo che domani a questi microfoni ci sarà un gradito ritorno e il nuovo stadio della Juventus, ma non soltanto il nuovo stadio, sarà oggetto di particolare approfondimento. Grazie Mario. Sentirei a questo punto, perché no, intanto ricorderei, segnalerei meglio, che l'unico prezzo della partita di ieri sera mi pare che lo pagherà l'Inter, perché si è infortunato Thiago Motta e insomma, dalle prime risultanze di stamane Motta è indisponibile, non è a disposizione di Gasperini per la trasferta di Palermo, anche se ancora mancano conferme. E poi sentirei il commento di Prandelli. Per quanto mi riguarda, l'Europeo inizia oggi. Se noi pensiamo di andare in vacanza 6 mesi e poi d'incanto prepararci per l'Europeo, forse allora abbiamo sbagliato. Da un punto di vista mentale dobbiamo pensare oggi. Adesso abbiamo un compito particolare, dovremmo comunque cercare di seguire quei giocatori che in questo anno hanno fatto parte del nostro gruppo, però con un occhio di riguardo ovviamente a dei giocatori che possono arrivare a fine stagione con una freschezza e con una voglia di mettere in discussione le mie scelte. Insomma, non è semplice, facile affrontare questi argomenti. Mario da Perugia, lo abbiamo già mandato in onda. Allora sentiamo Balzaretti, che è stato certamente uno dei più brillanti, dei più vivaci nella serata fiorentina di ieri. Contentissimo, perché per me insomma è il primo anno che faccio con la nazione, quindi per me è già un traguardo importante aver centrato questo obiettivo di andare agli europei, e insomma speriamo di farci parte adesso, insomma c'è ancora tutto un anno davanti per confermarsi. Stiamo facendo veramente un bellissimo lavoro di squadra, e il gruppo veramente unito, quando ci si trova con grandissimo piacere, si lavora molto bene durante gli allenamenti, c'è lo spirito giusto, c'è il gioco giusto, sono tante componenti secondo me che fanno sì che appunto poi si ottengono questi risultati, quindi nulla viene mai per caso e stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così, ecco, guai se si pensa che insomma abbiamo già ottenuto qualcosa, un piccolo passo, ecco, questo è stato soltanto. Anche Sandro Mazzola ha decorosamente portato il suo nome, scrive Max Massimo da Trieste. Beh, più che decorosamente, che discorso. Il confine che avevo fissato era se si riesce ad andare oltre il padre, ed è chiaro che più grande è stato il padre, più è difficile l'impresa del figlio. Ora, Sandro Mazzola è stato certamente un grande campione con la G e la C maiuscola, ma chi l'ha visto giocare sostiene che suo padre Valentino Mazzola sia stato in compenso un pezzo unico, e molti di quelli che oggi ci sono, qualcuno ancora c'è, qualcuno come Enzo Berzot purtroppo non c'è più, sosteneva essere stato Valentino Mazzola la più grande mezzala, come si diceva un tempo, cioè il più grande centrocampista di lotta, di governo, di copertura, di inserimento e di gol che si sia mai visto alle nostre latitudini. Mauro spiritosamente domanda, dice, ma non sa rispondere a una domanda magari sull'Albania. Mauro era sinceramente in crisi profonda su questa del campionato. Mi ha colto alla sprovvista perché il barbiere perugino, perché a me non risulta che esistano montepremi nel nostro campionato, cioè non mi risulta che né per la federazione né per la Lega, a differenza di quanto avviene per le coppe per esempio, dove c'è un preciso montepremi e anche ricchissimo, non mi risulta che ci siano che ci sia montepremi, cioè il premio è lo scudetto, il premio è il titolo, e quindi no. Poi mi suggerisce Franco Piantanida dalla redazione, sì, questo è vero. Per esempio Forlan è uno che è andato oltre il padre, perché il padre giocò ai mondiali del 74 ed era per giocare ai mondiali evidentemente era un buon giocatore, però diciamo che Forlan figlio oltre il padre è andato. Antonino ha chiamato da Palermo, buongiorno. Pronto, buongiorno Benzini, siamo da Palermo. Dica. Sto chiamando per, so che lei è molto, ama molto il signor Zamparini da Palermo, ci sta facendo dei danni qui a Palermo devastanti. Antonino, calma però sui danni, no? Io andrei molto pianino, esaminerei un percorso, cioè... io ce l'ho con Zamparini perché si rende ridicolo, no? Ma in una maniera esponenziale, con questi suoi atteggiamenti, queste sue decisioni sugli allenatori. Poi dire che Zamparini stia facendo soffrire il Palermo, io la trovo un po' ingrato su questo, perché bisognerebbe esaminare un pochino la storia del Palermo, ricordarsi dov'era il Palermo quando Zamparini l'ha preso e dove invece è stato in questi 10 anni, non crede? L'altra volta, mi scuso, l'ho incontrato a Palermo vicino al tribunale, il presidente, ci ho parlato e mi ha detto che non è vero che vuole cedere la società, ma siccome ogni settimana dice vendo la società e poi non la vende mai, dico... Non è una persona che ha una parola, questo lo pensava. Antonino è un Antonino, caro Antonino, Zamparini è un personaggio certamente pittoresco. Diciamo che i personaggi credibili forse sono diversi da lui. Detto questo, nell'ottica di un tifoso palermitano, io prima di lamentarmi di Zamparini ci penserei 3 volte, perché penserei a dove eravamo noi eventualmente tifosi del Palermo prima e a dove saremo o saremmo il giorno che davvero Zamparini mantenesse quello che minaccia un giorno sì e grosso modo l'altro pure. Beh, mi pare che il personaggio comunque che merita la copertina di ieri sera sia senza dubbio Pazzini, perché dire che Cassano e Rossi ieri sera abbiano entusiasmato nel loro ruolo di attaccanti titolari non mi pare si possa dire. Pazzini ha portato la classica freschezza, però ci ha aggiunto la sua potenza e questo si era visto subito dal momento in cui era entrato in campo. Poi è stato forse anche fortunato in quel mezzo rimpallo, ma non c'è dubbio che aver firmato questa partita ne abbia fatto il personaggio copertina. Sentiamo Pazzini. Aver fatto una serata così, arriva qua a Firenze, arriva il gol qualificazione, quindi sicuramente una serata veramente bella. Tutti i 90 minuti, sia il primo tempo che il secondo, abbiamo provato a far gol, e nel primo tempo siamo stati anche sfortunati su qualche occasione, ma anche alla fine ci abbiamo provato, ci abbiamo riprovato. Poi è venuto questo gol un po' su mezza mischia, mezza ribattuta, però insomma la squadra voleva vincere, voleva chiudere già il discorso stasera, questo è poco ma sicuro. Questi sono i casi in cui la fantasia, la vostra fantasia si scatena, ma la fantasia e la memoria soprattutto, questa in particolare vi invidio. Lori da Milano ricorda che il padre di Veron fu finalista contro il Milan nelle Studiantes e finalista col Milan nella finale euromondiale degli anni 60, e dice: Veron è andato oltre suo padre, ma direi proprio di sì, è certamente vero. Forse all'estero c'è qualche caso in più, forse Thiago Alcantara, dice Antonio da Milano, è già oltre suo padre Mazzinho. Beh, adesso per il momento magari non ancora, diciamo che potenzialmente questo Thiago Alcantara, cioè Mazzinho Junior, se vogliamo chiamarlo così, è un giocatore che ha qualità per andare oltre il padre. Però il padre poi era stato un campione del mondo nel Brasile del 94, e quindi andiamoci piano anche lì. Andiamoci piano e sentiamo che cosa ha scovato per il 7 settembre Nicola Filippone. Sembra ieri. 7 settembre 1994. Meno di due mesi dopo la delusione mondiale di Pasadena, la nazionale di Sacchi ricomincia dalle qualificazioni agli europei. A Maribor tiene a battesimo la rappresentativa della Slovenia, al suo esordio in gare ufficiali. I vicecampioni del mondo soffrono inaspettatamente fino a passare in svantaggio, ma trovano subito il pareggio con Costa Curta. Finisce con un deludente 1-1 la carriera in nazionale di Franco Baresi, iniziata 14 anni prima, quando Berzot lo aveva inserito tra i 22 convocati per gli europei italiani. In maglia azzurra, Baresi ha disputato 81 partite, di cui 31 da capitano, segnando un gol. Un bel ricordo, tra l'altro il 7 settembre è anche il compleanno del Genoa, perché venne fondato in questo giorno e mese del 1893 in il vecchio Siena, è chiamato così anche perché è la squadra più antica d'Italia. Tra l'altro proprio il 7 di settembre del 24, mi segnala Nicola Filippone, vinse il suo nono e ultimo scudetto, pareggiando a Torre Annunziata, pensate, contro il Savoia, il ritorno della finale valida per il titolo. Luca, dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono un tifoso della Juventus e volevo intervenire proprio sulla mia squadra. Ho trovato un po' ingenerose, a volte contraddittorie, alcune critiche che sono state mosse alla Juventus stessa, perché dopo un settimo posto così deludente non si poteva fare altro che cambiare allenatore, cambiare quindi il modulo di gioco e cambiare alcuni giocatori. Quindi se da un lato c'era la delusione per il settimo posto, dall'altro non si poteva fare altro che cambiare in qualche modo qualcosa. E poi un'altra considerazione: i famosi top player di cui si è parlato, mi sembra che solo Aguero sia stato poi ceduto ad una cifra molto alta, 42 milioni di euro se non sbaglio, e con quella cifra la Juventus avrebbe potuto solamente comprare un giocatore e certamente non fare una squadra nuova e competitiva per l'anno prossimo. Solo questo. Maria, ascolto volentieri la sua opinione per radio. Sì, grazie. Luca, le opinioni possono essere tante, insomma le scuole di pensiero possono essere tante. Io credo che ogni anno innovare molto possa essere un problema. Poi certo, dopo non un settimo posto, ma dopo due settimi posti, mi pare, no? Consecutivi, è ovvio che qualcosa andava cambiato. Il fatto che si sia scelto di cambiare soltanto dalla cintola in su, perlomeno se parliamo di giocatori di un certo peso, questo è forse un motivo di perplessità. Però è anche vero che il modulo che Conte ha in testa di adottare, probabilmente ha provato e quasi certamente adotterà, è un modulo molto offensivo e quindi la società lo ha secondato cercando giocatori di quelle caratteristiche. Tutto qua, poi è sempre il campo, no? che dà i responsi, mentre invece può essere qualche ascoltatore ad avere buona memoria e ad aguzzare l'ingegno. Simone da Siena ci prende in pieno perché dice: un altro che è andato oltre il padre è stato Bobo Vieri. Beh, su questo non c'è dubbio, perché Vieri padre era una bella mezzala di grande raffinatezza, di grande fantasia, ma insomma anche di poco temperamento, mettiamola così. Il figlio, sia per tante cose, ma soprattutto per i risultati, è certamente andato oltre lui. Alessandro, Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore, buongiorno. Dica. Senta, sei a proposito di Juventus, allenatore della Juve. Molti miei amici mi mandano quel peso quando dico la mia, mi dico anche lei. Non era meglio, considerato che l'allenatore che deve venire è sempre quello giusto, non era meglio avere allenatori che strappassero un po' il punticino, come poteva essere i Sonetti, Mazzone, o mi aiuti lei, anziché cercare il gioco. Ma perché hanno, scusi Alessandro, ma hanno ricambiato la formula, cioè il pareggio torna, cioè la vittoria torna a valere solo due punti? No, assolutamente, no. Però magari cercando di strappare il punticino anziché per forza la vittoria, poi averla sconfitta, magari in questo punto saremmo anziché settimi, magari sesti, sia quest'anno che l'anno scorso che l'anno prima, insomma. E che differenza faceva? Faceva che almeno si entrava in Europa. Liga. Esatto. Per poi schienarla come d'abitudine, come hanno già fatto Roma e Udinese Palermo quest'anno e come ha fatto la Juventus l'anno scorso, per esempio. Certo, no, ma la prendo per buona, prendo atto di quello che mi dice, quindi no, in linea a quello che mi... quanto mi insultano i miei... No, insultano, adesso sì, se la insultano per ragioni per quello che dico io. Ecco, per ragioni di tifo... Mi aiuti, allenatori che pronti per la salvezza ce n'erano parecchi, magari costavano anche di meno, ma anche sulla carta era buona. Vabbè, ma allora lei li vuole provocare, i suoi compagni di fede, sottolineo suoi, li vuol provocare lei allora, evidentemente, parlando di salvezza, no? Sì, perché fanno in 5-6 partite il punticino e magari si portava a casa anziché 0 punti, 3-4 punti che facevano comodo. Sì, io credo, va bene, io faccio davvero fatica a capire se lei questi suoi compagni di fede, ripeto, li provoca o se invece il suo è davvero un ragionamento. Dal 94 mi pare che ci siano i tre punti, così a occhio. I tre punti per la vittoria sono 17 anni, ormai è un meccanismo collaudato. Dal 94 il pareggio non è più un risultato positivo, anche se è ottenuto fuori casa contro una grande squadra. Il pareggio è una mezza sconfitta, soprattutto per una squadra della caratura della Juventus, nel senso che 3-1-0 è, insomma, basta, no? I numeri sono chiarissimi. 3-1-0 significa che uno è molto più vicino alla sconfitta di quanto non sia vicino alla vittoria, e quindi oggi giocare per il punticino, comunque giocare per prudenza, non ha più senso nemmeno nelle squadre che lottano per salvarsi. Quindi Enrico ha chiamato da Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garantini. Dica. Una considerazione sulla nazionale. Sì. Una è riguardo all'esterno, cioè noi Cassani, nessuno più forse Abate, non lo prendono mai in considerazione, che secondo me oggi è nettamente più forte di Cassani. E poi una su Balotelli. Cioè Balotelli ha 21 anni e potenzialmente, credo, il più forte giovane che abbiamo in Italia, le ultime 5 partite le ha giocate praticamente tutte e 5 in panchina, in Inghilterra e in nazionale. Sì. E noi parliamo sempre solamente di lui per quello che combina, sulle stupidaggini, ma quando li facciamo giocare sti giovani? Ieri è esordito nella nazionale spagnola Thiago Alcantara, mi sembra che abbia 18 anni. Ne ha già qualcuno in più, sì, ne ha anche 20, però certamente è molto giovane, sì. Ma noi non giocano mai, cioè Balotelli l'ha dimostrato quando è entrato in quel quarto d'ora che ha giocato, e facciamoli giocare questi giovani, non pensa. L'ascolto per radio, grazie. Sì, facciamoli giocare, facciamo prima in maniera che meritino di giocare, che siano, insomma, non credo che Mancini, cioè Mancini per Balotelli mi pare che abbia fatto molto, no? Per non dire moltissimo. Quest'anno se giocano Dzeko e Aguero in linea di massima e una delle riserve è Tevez, beh, insomma, non so se lo vedo benissimo Balotelli in prospettiva. E dirà: Mancini poteva fare a meno di comprare questi. Sì, però l'altro anno che su Balotelli poteva puntare a tempo pieno, mi pare che tutte le promesse e le premesse non le avesse mantenute, quindi bisogna andarci pianino. Poi è vero che Prandelli continua a sperarci, continua a investire su di lui, però è vero anche che per arrivare al quarto d'ora brillante, indubbiamente, che Balotelli ha giocato ieri sera, ha dovuto passare attraverso una strigliata, una che si è saputa, ecco, e poi magari anche qualcun'altra, quindi credo che il vizio di fondo non stia tanto in chi non gli dà le opportunità e non lo valorizza, perché di opportunità ne ha già avute non poche, data l'età, ma stia piuttosto dall'altra parte, cioè nel modo di proporsi e di porgersi. Dopodiché, se invece torniamo ad Abate indubbiamente è un giocatore che prima o poi la nazionale la merita certamente, e quindi credo che arriverà anche la sua occasione. Per noi è arrivato invece il momento di chiudere, quindi grazie a Mauro De Angeli in regia, a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.